brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Come vi annunciai la settimana precedente, ci saranno due meravigliose giornate al Salone Internazionale del Libro a Torino, Lingotto Fieri, in cui Melog sarà trasmesso in diretta. Giovedì 12 sarà trasmesso nel consueto orario, proprio dal Salone del Libro, ma venerdì 13, fantastica giornata, sarà trasmesso in due versioni, una versione alle 10 di mattina come sempre e un'altra alle 21 di sera. Ci sarà una fantasmagorica possibilità di presentare il frutto del proprio ingegno, il manoscritto che ognuno di voi tiene nel cassetto, il libro fantastico che vi è costato una vita di sforzi, di pensieri, di approfondimenti, di reticenze e che aspettate che qualcuno possa pubblicare, possa rendere pubblico, possa trasformarlo in una sorta di reliquia cartacea del vostro esistere, del vostro passaggio nell'avventura terrena. Beh, noi faremo quello. Abbiamo detto, chi fra voi, come abbiamo già fatto la settimana passata, ci convincerà che il libro che lui ha scritto, di qualunque genere appartenga, qualunque genere letterario, sia un libro di poesia, sia un libro sotto forma di romanzo, sotto forma di saggio, sotto forma di trattato filosofico o di narrativa fantasy, non mi interessa il genere, molti di voi stanno scrivendo dicendomi ma va bene di questo genere, qualunque cosa rappresenti un prodotto del vostro pensiero stampabile su carta, questo non interessa. Beh, quello che terremo degno di essere pubblicato lo porteremo noi con un rituale apposito a un editore dei tanti che staranno lì alla fiera. Ci sarà qualcuno che ci dedicherà probabilmente un istante senza mandarci subito a quel paese e si degnerà di prendere in mano ciò che noi gli metteremo speranzosi. Io ho un saggio che tratta di Islam e politica in Italia dal 1996 ad oggi. È diviso in tre parti. Nella prima parte intervisto 10 personaggi di spicco del mondo sunnita in Italia. Nella seconda parte analizzo i programmi elettorali e i provvedimenti legislativi emessi in ambito Islam e immigrazione da parte dei governi dal 96 ad oggi. E nella terza parte propongo un progetto, un'idea per un nuovo modello di integrazione. Io sono un vecchio marinaio, ho navigato per tanti anni nei sommergibili e poi ho lasciato la marina e adesso sono in pensione e utilizzo il mio tempo per cercare di navigare in quel mare stupendo, infinito che è dentro di noi. La storia è molto, diciamo così, è una storia che riguarda un gruppo di ragazzi che vengono coinvolti in una storia più grande di loro. In pratica riguarda molto l'esoterismo e la fantascienza. Il filone è una setta che aspetta l'avvento di una civiltà aliena. Chiedo scusa, iniziare lunedì è sempre abbastanza problematico, poi per me è sempre problematico fare ogni cosa ogni giorno di più. Ero stato male informato, anzi mal condizionato, che lo so benissimo perché sto guardando in questo momento il gruppo con l'appuntamento che ho aperto su Facebook sulla transumanza torinese. Noi saremo a Torino giovedì 13 maggio e venerdì 14 maggio. Venerdì 13 non c'entra nulla, esiste soltanto nell'immaginario fantastico di chi me l'ha suggerito. Quindi giovedì 13 noi faremo un Melog come tanti altri lì dal Salone del Libro al Lingotto, come già facemmo l'anno scorso, e sarà una fantastica occasione di avere un contatto concreto, visivo, olfattivo con chi fa la trasmissione e con chi l'ascolta. L'anno scorso ebbimo millanta soddisfazione da questo contatto diretto con il pubblico, speriamo di averne altrettanto e di più quest'anno. Poi venerdì 14 maggio sarà una giornata intensissima, perché ci produrremo in due trasmissioni, ma soprattutto vi raccomando quella della sera, quella che avverrà alle 21, perché avverrà in una specie di anfiteatro meraviglioso costruito con colonne, giochi di luce, specchi, specchi d'acqua, statue fantastiche, meravigliosi cortei di corribanti, insomma sarà qualcosa che non ho mai visto nella vita. Lì ci sarà Melog e sarà la proclamazione del vincitore di questo concorso. Voi immaginate, dopo tanti anni di velleità inespresse, di frustrazioni, di sorrisini, di commiserazioni, di battutine sulle spalle, dire beh lascia perdere dai, sei tanto bravo a fare l'idraulico per perché vuoi fare lo scrittore? Sei meravigliosa quando fai la torta di mele, perché vuoi scrivere poesie? Beh no, questo sarà il momento del vostro riscatto. Immaginate che in un coro meraviglioso, in squillar di trombe, con fanciulle, robusti fanciulli che vi porteranno sugli scudi, sarete portati a cospetto di un editore e potrete consegnare veramente il vostro manoscritto e verrà pubblicato, e probabilmente, non dico io, non ho nessuno potere per farlo pubblicare, ma può essere magari quel giorno l'editore coglie in voi quello che mai vi ha colto in nessun altro autore. Sentiamo se questo potrebbe essere il destino favoloso di qualcuno di voi. Chiamate all'800 24 0024 e vi ricordo la fantastica occasione. Io? Mai scritto niente, per carità. Oggi sono più quelli che scrivono di quelli che leggono. Sì, sì, dite tutti così, ma non è vero. Anche voi scrivete e sognate. Lo sappiamo benissimo che da qualche parte nel vostro PC, nella cartella foto vacanze, conservate un insospettabile documento di Word, un file che di tanto in tanto riaprite e aggiornate, rileggete, modificate e poi salvate. Sappiamo anche che per proteggerlo da sguardi indiscreti non l'avete nominato mioromanzo.doc, ma ricetta nonna, lista spesa, infotreni. Bene, oggi non dovete nascondere niente, dovete uscire allo scoperto. È il vostro giorno. Anonimi scribacchiatori, oscuri romanzieri picchiatasti, incompresi poeti fai da te, estensori di memorie autobiografiche, panterate autrici di diari sessual gastronomici, disperati letterofili senza raccomandazione. È arrivato il vostro momento. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale, chi saprà sorprenderci e sedurci, avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 0024. Sarà forse questo il meraviglioso destino di Daniela? Daniela, buongiorno. Daniela? Cominciamo con i morti viventi questa mattina. Giuseppe? Buongiorno. Ecco Giuseppe, sono contento di sentirla perché sarò costretto, dato il numero altissimo di aspiranti scrittori, a segare irrimediabilmente con chi non mi risponderà subito al telefono. Quindi lei ha risposto. Perfetto, ci sono. Sì. Ecco, allora, lei in cosa si è prodotto? Ho scritto un libro fatto di micro racconti, fatti di fotografie e parole, perché di fatto la mia principale passione è la fotografia. Quindi sono didascalia le foto o sono brevi? Sono didascalie lunghe, diciamo così, perché come racconti sono molto brevi. Ci dica qualcosa di più per farci capire meglio. Già c'è una difficoltà, devo dire, nel pubblicare un libro fotografico, occorre fare un investimento diverso. Poi immagino saranno foto che richiederanno una certa qualità di stampa, di carta, una cura particolare. Infatti ho dovuto autoprodurmi il libro, nel senso. Ah, già se l'hai prodotto lei? Ho fatto una piccola tiratura in tutta una quarantina di copie che ho venduto così personalmente, facendo delle letture pubbliche e così delle presentazioni. Ah, quindi è già, diciamo, un autoeditore lei? Ma sì, cioè piuttosto che piegarmi a quelli che chiedevano, sentivo la trasmissione lunedì scorso, che chiedevano un contributo per l'editoria, mi sembrava. Tanto vale stamparsi da solo. Dignitoso, sì. Senta, prima che mi dimentico, il libro è gratuito online perché io ho deciso di distribuirlo con licenza Creative Commons. Sì, quindi mi interessa che sia letto. Va bene. Quindi se uno va al sito sigurd.altervista.org. Sì, è difficile da ricordare, però facciamo un po'. Sigurd. Sigurd.altervista.org. Sì, ho capito. Sì, la prossima volta è spot illecito, quindi poi dovrò rivalermi su di lei. Quindi ci faccia capire cos'è questo libro, che già esiste, quindi È stato scritto l'anno scorso. Sì. Sono una dozzina di racconti molto brevi, si va da una singola riga, in effetti, il più lungo potrà essere lungo come un articolo di giornale, ecco, e non dei più lunghi. E però sono accompagnati da fotografie, adesso l'interazione tra la fotografia e il testo è varia, si va dalla didascalia al semplice contorno pittorico, oppure a volte sì, ma di che la fotografia essere didascalia del testo, insomma. Sì, ma di cosa parlano? Ah, sono racconti vari. Io faccio il lavoro più bello del mondo, per fortuna. Io insegno agli adulti. Sono insegnante e insegno agli adulti. E cosa c'è? La scuola della terza età? No, in realtà abbiamo di tutto, abbiamo sia gli anziani, insomma, che decidono di completare un ciclo di studi che hanno abbandonato, ma abbiamo anche i dropout della scuola e cosiddetti, insomma, sì, i ragazzini che nessuna scuola vuole più, poveracci. E quindi sono tutti insieme e già è bello insegnare, insomma. Poi c'è questa umanità molto varia con cui si finisce per entrare in confidenza e... Vabbè, dico onestamente, la cornice mi è chiara, non mi è tanto chiaro il contenuto, poi vediamo. Beh, se... Il contenuto è molto vario, va da fantasy al fantasy, in realtà molto poco. Ci sono... Qualcuno l'ha definito dei piccoli quadretti impressionisti adesso. Va bene, lo metto nel mucchio delle speranze che forse saranno in evase, e quindi vediamo se riuscirà in qualche maniera a commuovermi di più di quello che sta facendo adesso. Daniela, segatela per sempre, Daniela non merita di parlare. Fabio. Pronto? Eccolo. Buongiorno Gianluca Nicoletti, buongiorno. L'ascolto. Ecco, allora io brevemente, perché 3 anni fa ho cominciato a scrivere da un giorno all'altro, sono stato colto da questo impeto e ho cominciato con scrivere questo genere riflessivo, pensando a parecchie cose che mi capitavano con i figli o in ambito anche lavorativo, per darne tutto quello che mi dava emozione positiva e negativa, la tramutavo in scritto. Come l'ha chiamato questo scritto? Sì, il mio libro è L'incisore dell'io. Dell'io. È un cesello sul proprio io. Esatto, esatto. Un viaggio così introspettivo, personale. E mi dia un motivo per cui qualcuno dovrebbe essere interessato a questo cesello sul proprio io, sul suo io, anzi. Un motivo, secondo me, è che appunto, che è quello che mi ha dato anche lo stimolo per scrivere. Pensavo, la prima cosa, diciamo, che mi ha dato l'input sono stati i figli, nel senso che lasciamo immagini, video, cose estetiche, che sono cose che alla fine sono un po' superficiali e a discapito della nostra interiorità. Ho detto, perché invece non lasciarli ai miei figli o a chi che sia, se fosse un qualcosa di... Va bene, fermiamoci qua Fabio. Daniela, vediamo che forse l'abbiamo ripresa. Cioè, sì, non era un problema suo, mi dicono un problema nella linea, quindi è stata salvata dalla segatura. Vediamo se riesce a divertirmi, Daniela. Finora mi sono annoiato tantissimo questa mattina. Beh, io scrivo per ragazzi, non so se può... Non se è può un bel inizio, comunque andiamo avanti. Va bene, no, sono delle storie per ragazzi. La prima è ambientata alla Alhambra di Granada e ha dei protagonisti, i gatti come protagonisti. Sono gatti comuni agli occhi dei turisti, ma in realtà mantengono vive delle tradizioni che altrimenti sarebbero andate perdute. E quali sono queste tradizioni? Ma ci sono i gatti che popolano la fortezza militare, che sono più combattivi, più battaglieri, i gatti che invece abitano i palazzi, che sono più dediti all'arte e alla poesia. E, mentre un traditore sta cercando di far scoppiare una guerra seminando zizzania, 4 bambini si perdono dopo un giro turistico, rimangono chiusi dentro l'Alhambra e hanno all'inizio bisogno della protezione del gatto sultano, la storia si chiama così. Ah, il gatto ma poi sarà... sì, beh, quindi è la radice morisca della città. Sì. I sudditi, cioè questi gatti, tengono viva la voce dell'Alhambra cantando ogni notte. I gatti cantano, i gatti miagolano. I gatti fanno le fuse in questo caso, sì, ma stiamo parlando gatti, di un mondo tutto loro. Quando sono in amore fanno degli strazianti lamenti. Degli strazianti versi, sì, sono d'accordo. Sì, ma solo quando sono in calore, sennò stanno zitti, stanno lì. Fanno le fuse, miagolano. Comunque loro cantano. O sono sempre in calore, dipende. E le preghiere che sono incise nelle pareti dell'Alhambra, preghiere che sono state scritte 1000 anni fa. Oddio, guardi che se la sente un musulmano non sarà non tanto contento. Sono poesie bellissime però. No. È vero, io non vorrei aver offeso nessuno, vede, ma c'è sempre questo poesie. Rischio. Non stiamo molto attenti, lo so. Speriamo di no. No, adesso non voglio metterla in una condizione di sentirsi un rush dei tempi nostri, però diciamo sono materie da trattare con grande delicatezza. Daniela, è sufficiente, ho capito. Riccardo. Buongiorno. Eccomi qua. Ecco, io prima di... Diciamo che poi al termine le devo dire una cosa che lei a suo tempo mi ha combinato involontariamente. Che l'ha combinato? Niente, quando c'erano... Ma guarda, c'è già una lettera di proteste qua sul tavolo, dica per cosa. Quelle di Zedo Casciao, non so se si ricorda, di quel regista Mojica Marins, no? Un fantastico eroe solo che io, del cinema trash brasiliano. Probabilmente sbagliando capì che era portoghese, quindi in un viaggio in un Portogallo andavo cercando questi film e tutti mi prendevano per pazzo, poi scoprì che era brasiliano e quindi... Sì, è una sorta di anti-eroe brasiliano, un cattivissimo essere demoniaco con delle unghie lunghe. Quello, che squarta il signore dei cimiteri. Sì, sì. Ok. Niente, io le telefonavo perché ho sentito, diciamo, questo appello ai romanzieri e poeti dilettanti, e quindi siccome mi sono dilettato di aver scritto un racconto che ho mandato agli amici, e gli amici è piaciuto, insomma, non so. Gli amici non dicono mai che Nacho Fega è una cosa che dà un amico, anche perché poi occorre troppo tempo e troppa fatica a spiegare perché, e poi si perde l'amico, si litiga, meglio dire meraviglioso, fantastico. Devo dire che l'hanno letto in breve però, perché in un'oretta se ne sono venuti fuori tutti, eppure 40 pagine, quindi insomma... Per levarsi il problema e doverle commentare poi. Per carità. Di cosa tratta? Allora, praticamente le dico come comincia, che poi insomma si dipana. Sì. È ambientato in un paese della provincia di Catania, dove c'è un personaggio che io qualifico come mia suocera, insomma, nell'avvio del racconto, che ogni sera al termine che vede sempre gli stessi programmi televisivi, è come se da 40 anni vede sempre lo stesso programma, no? Di volta in volta, sì, con Rizzi, sintetico, con la Carrà. A un certo punto, mentre va a letto, saluta la foto del marito morto che su uno sparecchiatavola, sai quegli sparecchiatavola anni 50, dove c'è una pantera Art Deco per gli anni 20 e un Buddha in vero finto avorio che era stato comprato da un marocchino sulla spiaggia, sulla che spiaggia cosa abbastanza popolare. E a un certo punto si accorge che la pantera lacrima sangue. E quindi resta senza parole, sconvolta. Quando dopo circa mezz'ora... E il Buddha che fa? No, il Buddha è fermo. Poi il Buddha c'è, anche lui ha una sua piccola... Sintesi, che succede alla fine? Allora, quando dopo circa mezz'ora la figlia Zitella, definita Zitella senza speranza, la trova in quel modo, vede la bandiera che sanguina e grida miracolo. E questo già dà una connotazione positiva, no? Perché magari poteva svenire, urlare, invece dicendo miracolo dà una connotazione positiva al fatto. Allora, siccome tutti i condomini della palazzina, come in tutti i buoni condomini della Sicilia, non fanno altro che spiarsi l'un l'altro, no? Con mezzi più o meno sofisticati, immediatamente vanno tutti e comincia poi questa storia di questa lacrimazione, cioè il di un pellegrinaggio verso la pantera lacrimosa. Come? Sì, un pellegrinaggio. Diciamo, la pantera che lacrimava sangue, ecco. Questo, come i frati, diciamo, della Certosa, la pantera lacrimosa. Sì, lacrimosa, possiamo dirlo. E quindi? E quindi, e il Buddha cosa c'entrava? A questo punto, diciamo, c'è... diciamo, questo miracolo che non rientra nell'ambito canoni, dei miracoli normali, e che comincia a creare problemi. E da qua si creano una serie di storie, quella del preside che odiava i negri, quella di del sindaco del paese che non ha fatto mai niente per nessuno, e quella di un veterinario, e ci sono insomma queste storie che si dipanano con questo, quella del parroco. E alla fine? Insomma, ci sono una serie di momenti. Beh, alla fine... Non la vuol dire, è un segreto. Diventa un po' che dovremmo raccontare un po' tutte queste storie. È complesso, però diciamo l'inizio non è male, diciamo la vicenda... Diciamo che la fine, diciamo, è un po' cinica, perché era uno scherzo. Ovviamente anche l'avvento, il fatto del miracolo crea anche dei problemi con la magistratura, no? Perché si comincia a pensare giustamente, che sia tutta una storia creata, allora alla fine... Siccome entra in gioco un po' anche... Vabbè, guardi, la seguo, mi sto un po' annoiando, scusi. Spero che sia più avvincente nel testo, nel racconto, non lo è molto. L'inizio era buono, comunque. Melog 2.0. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale, chi saprà sorprenderci e sedurci, avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 00 24. Ci stiamo, con grande sforzo di volontà, devo dire, occupando dei racconti, dei romanzi, delle composizioni, degli squarci di vita, delle elaborazioni mentali dei nostri ascoltatori, pensando che probabilmente esistono nelle pieghe del grande sistema di reperimento e di pubblicazione dell'editoria nazionale delle aree ancora da riempire. Devo dire, ma io sapete che non difetto certo di schiettezza quando esprimo il mio parere, poi sono una persona, per quanto volete, dotata di doppiezza e capacità di falsificazione del suo pensiero, mi sono molto annoiato in questa prima parte nel sentire i racconti, l'esposizione dei racconti, soprattutto nella possibile sintesi che gli autori fanno i loro libri. Io penso che un libro già noioso nel raccontarne la sintesi sarà impossibile da leggere, impossibile da sfogliare. Cosa ne pensa Alberto Castelvecchi? Alberto, buongiorno. Buongiorno. Alberto Castelvecchi, un nome importante in editoria italiana, soprattutto per la sua capacità di scoprire quello che gli altri ancora non avevano scoperto e che hanno probabilmente riutilizzato e riscoperto dopo. Oggi si occupa della Liberty Castelvecchi, anche agente letterario. Io, Alberto, la prima parte con grande pazienza ho ascoltato gli ascoltatori, a cui voglio un bene dell'anima, mi sono mortalmente frantumato. Come mai? In effetti. Beh, dunque, prescindendo dal merito, perché poi sai, può anche capitare che arriva uno con un libro di fotografie e tu trovi che il libro non si può fare, però sai, gli editori sono un po', trattano un po' gli scrittori come quel famoso animale di cui non si butta niente. Dice, però sa che le sue foto sono curiose, facciamoci delle copertine, per cui uno dovrebbe vedere caso per caso. Però di là dal merito ci sono degli errori di metodo. Sì, ti sto ascoltando. Seguito uno sull'altro. Allora, il primo ascoltatore è quello che aveva il libro di fotografia. Normalmente i libri di questo tipo devono avere un tema coerente, di là dalle foto che devono essere belle da impazzire, ma questo non possiamo dirlo perché non le abbiamo viste. Il fatto che ci sia questa miscellanea di temi e che poi siano accompagnati da testi scritti dallo stesso fotografo, ora è molto difficile già che uno sia bravo in un'arte, figuriamoci in due arti, e poi un po' così questo progetto raffazzonato in cui si dice alcuni testi sono di una riga, altri sono lunghi come un articolo di giornale, insomma non c'è un progetto. Completa assenza di impianto. Il secondo ascoltatore è quello, diciamo, che trasfonde le emozioni in una specie di racconto intimistico. Va bene di per sé che la gente scriva diari anche a beneficio dei figli e dei nipoti, però più che portare le proprie emozioni dentro la scrittura in maniera bruta, bisognerebbe partire dalla scrittura e far provare emozione ai lettori. Quindi, ecco, si tratta di scritture non scritture, di scritture familiari che hanno la loro importanza, magari per il linguista, per l'antropologo, per lo studioso, ma difficilmente l'editore ci trova cosa. Poi, secondo me, non so se sbaglio, Alberto, nella mia lettura, un epistolario destinato alla propria famiglia è coperto da un esecrabile senso di pudore nel rivelare alcuni aspetti di se stesso, che ne ucciderebbe comunque una possibile felicità poetica, non lo so se è giusto. Infatti poniamo, se questo nostro ascoltatore avesse una seconda vita degna di Charles Bukowski o di Marilyn Manson, cosa che magari potrebbe essere interessante per i lettori un po' morbosi in materia di sesso, di deboscia, e magari invece ai figli si rappresenta come un padre ideale, il che appunto, come dici tu, va benissimo, però poi annoia il lettore. Ecco, c'è un po' questo sospetto bonista di Melassa. La terza ascoltatrice, quella diciamo esoterico, sufi, gattara. Lì potrebbe darsi che ci sia un seme, nel senso che ogni tanto capita di, diciamo, quello della gatteria è un genere un po' inflazionato. Sì, è quello, non l'ho voluto dire per cattiveria, ma i gatti parlanti, i topi parlanti, gli uccelli parlanti, insomma, non se ne può più. Dai fabliò medievali, ma fino a oggi, che come uno basta che entra in libreria trova continuamente cose dedicate a gatti. Il tema sufi sembra un po' modaiolo, cioè i sufi sono tuttora questi mistici dell'Islam che cercano di conciliare, no? La tolleranza con i messaggi dell'Islam più puro. Bisognerebbe vedere come è scritto e soprattutto in quel caso. Sì, poi è già passato Battiato, già è passato un sacco di gente su questo. Bisognerebbe vedere come è illustrato un racconto così. Il quarto ascoltatore, che sembrava Camilleri, che sembrava un Camilleri in XVI, no? Con questo tono, questo modo di parlare. Il leopardo lacrimoso, quello lì. Ecco, io ho rivisto la Pantera Lacrimosa, io ho rivisto, diciamo, certi stucchevoli soprammobili, sembrava un po' una specie di Gozzano, una signorina felice da altri tempi, cioè il Buddha d'Avorio preso la feria e la Pantera nel centrino anni 50, ero agghiacciato, perché diciamo che lui parlava di questo arredamento agghiacciante da televendita, da TV libera. Beh, sai, no? È come un ergastolano che alla fine ti descrive la sbarra della finestra o il topolino che gli passa sottopiede. Però il problema è che lo faceva senza ironia, cioè era assolutamente tranquilla e piatta la descrizione di questo interno domestico che era raccapricciante. Ora, di fatto, la letteratura universale è piena di oggetti magici da cui la lampada di Aladino, no? Da cui sprigionano delle cose. Da degli oggetti così raccapriccianti non mi aspetto che possa sprigionare una grande storia. Comunque, di là dal merito, l'errore di metodo che ha fatto questo ascoltatore è uno ed è fondamentale. Mai dire o mai pensare l'ho fatto leggere ai miei amici, quindi va bene, perché gli amici, che infatti se ne erano sbarazzati tutti in un'ora, come abbiamo sentito, nessuno l'ha letto. Detto tutti che va benissimo, e per forza, che gli devi dire a un tuo amico? Rinuncia? Sei negato? Sei scemo? Magari potrebbe anche essere che ci troviamo di fronte a Gustave Flaubert, che come noto faceva leggere a 5 amici Madame Bovary, però come si dice, di Flaubert ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno qualcosina di più che 31. E poi tutti temevano che parlasse della propria moglie, quindi alla fine si asteneva. Sì, era terrificante, sì. Comunque può darsi invece che questa surrealtà un po' pirandelliana, mista a invece un contesto verista da robaccia verdiana accumulata sul centrino anni 50, produca qualche cosa, ma non so, ci vorrebbero delle scariche elettriche in grado di indurre in questo Frankenstein letterario una vita chissà surrettizia. Diciamo la verità, Alberto, o si è matti veri, allora non bisogna avere nessun pudore e bisogna dire fino in fondo, dare dei piccoli baluginì di trasgressione in una vita concentrata sui centrini di casa propria, alla fine non dà nessun tipo di sensazione. Certo. Sa di pipì di gatto, di casa stantia, di idee ammuffite che non hanno mai avuto il coraggio di liberarsi e di essere spudorate. Sentiamone qualcun altro, così ti solleviamo la giornata. Francesca. Ciao Gianluca, io chiamo da Modena e ho 40 anni. Questo è già un bell'inizio. Il libro praticamente che io ho scritto è un libro che poi non è stato mai pubblicato, perché è chiaro, chiami me sei, è l'ultima spiaggia, questo me ne rendo conto. Sì, ed è un libro autobiografico che parla praticamente di un tradimento, quindi di un tradimento che ho subito quando ero ragazza e che comunque è stato molto pesante, però lo tratto come argomento, come un'occasione di crescita che ho avuto reale. Di crescita di corna, un tradimento non è, si cresce molto, si diventa infami nei confronti del senso dell'amore, della fedeltà, dell'eternità, uno capisce che in realtà sono bazzecole, chiacchiere, sovrastrutture. Infatti parlo in questo senso, dico in questo senso, sono cresciuta perché ho capito che comunque era quello che hai detto. Sì, ma non è una cosa triste, spero si allegra, ci sarà un momento di catarsi. No, assolutamente, no. Sì, c'è un momento in cui... E cosa fai te? In che senso? Per rendere pan per focaccia chi ti ha tradito. No, io niente. Ho capito che è importante non credere che alcune cose esistono e che sono quelle, basta. Io non credo più alla fedeltà. Beh, questo è giusto, che... la fedeltà è un termine astratto. Sì, no, penso che esista il valore contrario. Vale per i carabinieri nei secoli fedeli, ma basta, finisce lì. È uno slogan, cosa vuol dire la fedeltà? Sì, no, infatti. Ecco. No, non hai applicato questa regola, spero, anche nella tua vita. Sì, assolutamente. Quindi questo è il lato importante, perché raccontare un tradimento subito è solo tristezza, sono lacrime e sangue. Fammi capire il risvolto di questa medaglia, se c'è qualcosa di succoso. Il risvolto è il mio cambiamento, il fatto di vedere comunque la vita con occhi assolutamente diversi. Erano tutte delle balle quelle che io pensavo. Ma questo bastava che ti guardavi un po' intorno anche da bambina, lo trovi scritto ovunque, la letteratura te lo insegna chiunque. Però sai, a volte fa sempre piacere comunque parlare di se stessi. Io comunque volevo parlare con me stessa e poi dirlo a me stessa. Senti, ma mi dici, secondo te mi divertirebbe leggere questo libro? Ma sai che cosa? Che io invece l'ho fatto leggere una mia amica, che è una psicologa, e mi ha detto che è estremamente logorroico, mi ha detto questo. Beh sì, un po' rischia di essere noioso. Sì. È un po', scusami il termine, ma ormai è sdoganato. È figa di legnico nel suo immaginario, capito? Ecco, no, ti dico, sicuramente sdoganato come tema, però comunque cerco di affrontarlo parlando anche di cose diverse. Insomma, in questa mia evoluzione c'è anche fatto? Un discorso di continua ricerca di un equilibrio individuale, quindi è un discorso di infanzia. Ma scusa, nella ciccia che fai? Cioè, in termini concretissimi, per trovare questo equilibrio? Vai dalla tua amica psicologa, alla fine gli hai propinato anche il libro dopo anni di sedute? No, gliel'ho fatto leggere così tanto per farglielo leggere. Ma tu sei in analisi da questa amica? No, assolutamente no. No, è perché non mi ero mai fidata di nessuno, poi lei mi sembrava... Sei fidata di una psicologa, brava. Sveglia. No, io mi sono fidata di lei come amica, poi il fatto che facesse la psicologa... Vabbè, chiudiamo perché mi fanno dei brutti segni dall'altra parte. E quindi devo chiudere la trasmissione proprio? Ah sì, devo dare la linea all'informazione del traffico. Mi dispiace, immancabilmente arriva il traffico. Vediamo in questa ultima parte di analizzare a raffica tutti quelli che vorranno esporre il loro libro per la nostra fantomatica presentazione, ostensione del manoscritto a un editore al Salone Internazionale del Libro. Velocemente, Enrico. Buongiorno. In pochissime parole. Eccomi esposto al pubblico ludibrio. Bravo. Il mio è un fantathriller chimico. Sì. Va bene così? Sono abbastanza... No, vada avanti, non commenti se stesso, basto io per commentare. Nulla, semplicemente in un mondo stravolto dalla mancanza di acqua e dalla penuria di idrocarburi che nel frattempo si sono esauriti... Titolo? Una giovane chimica si è inventato un metodo assolutamente poco legale ma assai efficace di sintetizzare l'idrogeno. Come si chiama questo libro, il titolo? Il titolo qual è? Geni in avanzato stato di composizione. Questa trova l'acqua ricavandola dall'idrogeno e quindi? No. Lei cava l'idrogeno da un altro liquido e quindi mette a disposizione... Ma qual è l'altro liquido? Non lo posso dire perché è la cosa su cui si basa Un indegno liquido, per capire? Indegno, assolutamente, sì. Però l'indegno liquido non si produce se uno non beve l'acqua, quindi mi sembra strano. No. Lei sintetizza l'idrogeno da altri liquidi, che poi è quello che viene usato per far andare le macchine. Benissimo. Al posto del petrolio, al posto dei derivati del petrolio. È un fantaromanzo bioecologico, ho capito. Angelo, niente, è morto. Alessandro. Buongiorno. Vado al punto. Allora, la mia è un'idea, più che io non ho scritto niente. Non c'ha tanta voglia, si sente. Ecco. Allora, l'idea è questa, di scrivere o far scrivere a chi ha competenza un libro di ricette dove non si utilizzano coltelli. Ma lei che ci mette del suo? Perché se glielo scrivo un altro... No, io del mio ci metto semplicemente il progetto, quindi l'approvvigionamento di coloro che dovrebbero scrivere. Ma lei finanzierebbe lo scrittore? No, io non finanzio nulla, io cerco un editore che possa poi pubblicarlo questo libro. Chiaramente è rivolto a delle categorie che hanno dei problemi nell'utilizzo dei coltelli. Cioè serial killer, chi? Gli sgozzatori compulsivi? Per esempio i carcerati, oppure anche persone che hanno disabilità, non vedenti, o anche dei percorsi su bambini. Quindi un libro per chi non può usare i coltelli. Cosa insegna a fare questo libro? Insegna a fare delle ricette dove non si utilizzano coltelli. L'idea è chiaro che è venuta da un punto di vista mio, facendo il mestiere dell'arrotino, da non confondere con i nomadi e company. Sì. Per cui io, girando per i miei clienti, ho visto che c'è questa, insomma, sembra strano, ma disinteresse verso questo strumento. Quindi è nata la provocazione dicendo, bene, fatemi delle ricette senza coltelli. Ovviamente si sono trovati in difficoltà, ma qualche cosa è venuto. Il semolino senza coltello. No, è la patata lessa, l'uovo fritto, lo so fare anch'io. Quello che si chiede sono dei percorsi gastronomici dove non si utilizzano questi strumenti. È chiaro che poi la raccolta di queste ricette dovrebbe essere devoluta, quindi non a scopo di lucro, a queste categorie che ho detto prima. Agli arrotini disoccupati? No, agli arrotini questa è una provocazione che viene dalla nostra categoria, in quanto che non saremmo tacciati di lucro. Ho capito, la sua operazione. Diciamo è un'operazione di brand. Lei dice l'arrotino è talmente consapevole del suo essere indispensabile alla società, faccio un libro, vediamo cosa riuscite a fare senza coltello. Esatto. Quindi è anche per attirare un'attenzione sulla nostra categoria, che purtroppo sul coltello è... che tante soddisfazioni ci ha dato nel corso della storia, che è giusto che noi teniamo sempre accanto a noi, anzi in tasca ancora meglio, perché senza quello non si mangia. È chiaro, grazie Alessandro. Chiara, salve, buongiorno. Volevo dire una cosa, al di là di quello che scrive su come mangiare... Ma pensi al suo libro, lasci perdere quello degli altri, c'è poco tempo. Ok, voglio dire che in un romanzo, in una storia, ciò che vale di più è lo stile più che il contenuto. In fondo, ciò di cui si parla... Fino a un certo punto, non sono d'accordo, lei che ha fatto? Ecco, io ho scritto... parecchie cosette, e poi adesso c'è la possibilità di fare blog eccetera, e ripeto che io vedo che, dato che ho un minimo di seguito, vada al suo libro qual è il tema? È molto lo stile, il tema. Il mio stile potrebbe essere il suo stile, già mi sta annoiando. Il tema qual è il tema del suo libro? Il tema è la morte. Bene. E secondo me è inutile parlare di altre cose, l'unica cosa valida di cui parlare è la morte. Sì. Poi? Quindi cerco di mettere dentro anche solo una morte o parecchie morte, un romanzo in cui vinto il premio Italo Calvino, ho ucciso 5 bambini, robe del genere. Però nel mio stile è che cerco di non avere nessuna concezione. Beh, lei guardi, lei secondo me potrebbe fare una sorta di operazione consociata assieme alla Rotino. Invece che fare un noiosissimo libro sulle ricette senza coltello, la Rotino potrebbe assieme a lei fare un libro come usare il coltello nei confronti degli esseri umani. Non so, è un'idea folle. Sentiamo Alberto Castelvecchi. Ma dunque, sempre andando in ordine di apparizione, se non sbaglio la prima era l'ascoltatrice che ha dato da leggere le proprie lucubrazioni alla psicologa. Delle corna di mille anni fa. Eh sì, e di fatto meno male che dopo è arrivato il segnale per il traffico, perché c'era un sacco di traffico di parole e basta, nel senso che se perfino l'amica psicologa gli ha detto guarda, questa storia del tradimento, mi è sembrato, ecco, un'ottima autoanalisi, che il tradimento ci insegna tante cose, però come dicevano i latini non sequitur, cioè poi non c'era un'idea brillante, infatti tu continuavi a chiedere sì d'accordo, ma dopo che ha fatto... Ed ha anche qualche lampo di lucidità del perché qualcuno possa averla tradita, questo è una cattiveria mia. No. Forse un po' maliziosamente volevi sapere se dopo si dava sì, ma manco compulsiva. Quello, nemmeno quello. Sì, avevo fatto quello, volevo andare lì, volevo andare a parare. Invece la mia vita è cambiata, io pensavo una sorta di velocissimo smutandamento, ma nemmeno quello, continuavo a parlare. Neanche quello. Poi il thriller a sfondo chimico, i geni in via di decomposizione. E beh, lì diciamo anni fa girava Eleonora Brigliadori che cercava di convincere le persone la propria pipì basandosi su una terapia ayurvedica. In effetti pare che ci siano dei santoni ayurvedici che consigliano di bere la propria pipì per rigenerarsi. È una cara amica, guarda, poi una volta lo devo dire perché mi stavo qui, la incontrai all'aeroporto e mi offrì un tè, aveva un suo tè particolarissimo, dicendo lo teneva in delle bustine. Finzi che ero allergico al tè. È un mio pregiudizio. È una pianta ornamentale come succede nei film comici. È un mio pregiudizio. Ecco, perché praticamente in questo caso si capiva che l'alta quantità di idrogeno è contenuta nel nitrato di ammonio NH2. Cioè, stavamo parlando di... Mi sembra veramente un po' campato in aria. Nel terzo racconto, quando parlava il nostro amico Arrotin, cioè nella terza storia, quella del libro di saggistica che lui vorrebbe fosse realizzato, in effetti c'è un editore specializzato che si chiama Erickson, che tratta anche progetti speciali di questo tipo, disabilità, che è un editore anche molto ben distribuito. Sì, sì, conosco bene. Un progetto del genere lo sottoporrei, però devo dirti, Gianluca, mentre lui parlava io avevo in sottofondo proprio nella mia mente il famoso, gli volevo chiedere chi ha scritto il famoso testo agghiacciante che ogni tanto sentiamo nelle città, è arrivato l'Arrotino. Sì, è una cosa che ho studiato. Se la vostra cucina fa il fumo, noi ripariamo la vostra cucina. Io vorrei che qualcuno scrivesse un thriller basato su un serial killer che si annuncia con questo messaggio agghiacciante dell'Arrotino. Quindi è congrua, diciamo, il suggerimento di mettersi in società con la scannatrice, quella lì. Con la scannatrice si potrebbe chiamare è arrivata l'Arrotino, infatti, e qui chiudiamo, diciamo, la carrellata. Mi sembrava un po' esagitata da questo tema della morte. Beh, direi alla nostra ascoltatrice, come dicono tutti i bravi esoterici, sufi, massoni, illuminati, spiritualisti, eccetera, eccetera, proprio perché la morte è il tema più rilevante che abbiamo, forse, come diceva Wittgenstein, di ciò di cui non si può parlare è bene tacere. Invece lei sembrava ossessionata dal fatto di mettere un sacco, mi veniva da dire con Totò proprio, e li morte, cioè insomma morti su morti, cataste di morti, insomma sono pochi gli scrittori che trovano il successo tramite questo effetto di accumulo, generalmente fanno quel genere un po' di serie B che si chiama horror gore, non so tu Gianluca sei uno specialista anche di subculture pop, dovresti saperne qualcosa. Sì, anche perché oggi poi ci sono dei fantastici telefilm che appagano in maniera con una sinestesia più allargata, con una soddisfazione sensoriale più allargata, questo desiderio di squartamento, di sbudellamento e di sfrittellamento di cadaveri o di esseri umani. Grazie Alberto Castelvecchi, grazie a quanti ci stanno segnalando, ne vedo una fila ancora in attesa, non posso far parlare tutti. Diciamo che lunedì prossimo faremo una successiva selezione, visto che il fantastico manoscritto che noi consegneremo a un editore sarà condito di tutte le fattispecie che abbiamo già sentito in queste puntate. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.